Non mi ti siete, ma però... C'è nessuno? Luca? Chi è? Antonio? Popunio? Ciao Mari? Pilubi? Chi è che chiama? Tanto già ci conoscete già un bilibi? Chi di loro si tratta? Sì! Vedi? Sto guardando la TV e ascoltando chi entra. Te ne uno col bip, chi era? E non eri tu. Ah? Che ti dico non eri tu? Sto capitolo. Ho detto non eri tu. Ma non ho sentito mai nessuno, no. Solo lui sto bipi e a te ho sentito. Io ho sentito il bipi. Dov'è un cane? Lo accenderò adesso. Ho chiamato Antonello, a Luca e a te. E non vuoi rispondere nessuno, non v'è nessuno. No, non sentiva nessuno, perché poi non è che ero attento, e a te sì, ma stavo guardando la TV, capito, grazie. Dai, ci sentiamo magari domani, che continuiamo guardando questo film. Già ci sentiamo domani, grazie. Buon proseguimento serata. Salutami in casa, vai. Ciao. Ciao, alla prossima. Chi sta sbagliando? Ciao Bacchi, sono tutti buschi. Hanno inteso umidità e lo sono usciti. Buonasera Graziano, ho sentito. Io ti sono come sapere la gioca, la chiamata, non da va. Non c'è nessuno, mi ha risposto Gio Maria, ma sta guardando un film. Io lo aspetto poco fa, la TV, l'ho accesa adesso questa, avessi vera anche lui. E a quanto sembra non c'è un cane. Io ho sentito un paio, ma ogni tanto si sentiva una porta, però non facciava nessuno. Si accendeva la luce, boom, basta. Non c'è nessuno, no, sono tutti letargo. Hanno detto no, che siamo a gennaio, vera nevi. Siamo intrusosi, ho intruso, l'ho mocciata, va che fa freddo. Ma non è che ci sia freddo. Io so come... Umidità è vero, freddo, umidità. Umidità già ce n'è, quella sì. Infatti, c'è umidità. E poi non ne prende il buon, fino a fino. Mi ha occupato la campagna, tutto l'albero, è tutto asciutto. A che va a venire via? Ma... è votato hai? No, non sono andato. Grazie che non veni solo, va per gente. Aspettate, la gente si è calma. Se sono andato io, verso mezzogiorno, non c'era un cane, due bastoni vini. Un po' di gente non ci fa votare. A chi dice sopra le europee non è affuttinuta. Sicuro, europee. E chi è andato a dire? No. Ah no, che sei stato, che sei trovati oggi alle elementari. No, io vado vicino a... alle scuole, quelle che ci sono vicino a quel palazzone, come si dice? Tecnico femminile, lì in quelle scuole lì, vicino ai giardini che ci sono lì alla Madonnina. Dove tu devi andare, Ica, o tecnico femminile, attuale. E in quella scuola, diciamo. Quel padiglione lì, dove ci sono le suore, più avanti. Sì, ho capito, ho capito. No, io vado qua vicino a me, quelle sono dice musiche danno la piazza del Tori, le finestre danno quella parte lì, di fronte allo stadio. E sempre la solita stanza, numero 22. Sempre l'ultima aula in fondo a tutto il corridoio. No, invece lì via Solani, dove vado io, è la prima stanza a sinistra come entro, danno la vetrata. E se pensavo che tra, entra decido, oggi va tu, arriva lì e scende lì chi giù, uvera e appura di la viata, e c'è Luglio, boh, so che tra decido, un minuto va giù. Questa destra la voglio così, mi dico così. Stiamo preparando la Madonna a uscire, l'infermiera ha portato la Madonna, mi grazia. E delle grazie. Avevo delle grazie, si è messo impermeabile. Ehi, quest'anno non ci sono andato. E lo so, c'è la processione. L'anno passato sì che sono andato, quest'anno ho preso che andato. E in genere vado quasi tutti gli anni. E la mia Madonna delle grazie, graziano. Infatti, è proprio così, la Madonna tua grazia. La Madonna delle grazie. No, ma stiamo preparando per uscire. Devo uscire alle 7 questa processione, ma te lo conto dalle 7 e mezzo. Ehi, un anno sono cazzato i libri via l'Italia, me l'ho guardata dall'incrocio, è entrata al policlinico, poi è uscita, nell'incrocio lì me l'ho guardata. E poi mi sembra che ero scesa a Sant'Ubrito, si è barato. E no, quest'anno non ho preso che andato, ma l'anno scorso sono andato, in genere ando ogni anno, quest'anno già. Non so se si rimanebbe dati una scappatella, me la faccio. Vabbè, è andata mia figlia, mi ha portato anche l'immaginetta. Sì, ma oggi è giornata bagnata, fredda, umida, tutti i vecchi va oggi. Ehi, un anno me l'ho vista anche dall'ospedale, io l'ho ricoverato, da giù, quando c'era quell'ospedale che hanno buttato giù, quello rosso, è passata proprio lì davanti, e io l'ho ricoverato. Già ci vado quasi tutti gli anni, mica anno invece non mi sono andato, e vabbè, l'immagine taglia me l'ha portata mia figlia. Sì, va bene, la Madonna già padroneggia, grazie. Già padrona. Ehi, ancora già c'è una settimana, ci siete umili, dunque mi posso anche avvicinare qualche giorno. Se lo affida c'è il sindaco. Sì, a Vidolina, grazie, in questa diretta a Vidolina, dal Duomo stiamo trasmettendo. Per la preparazione per uscire. Aspetta che me l'accendo a vedere. Quindi grazie che va a vedere anche tu. E l'ho acceso, la sto vedendo, mi lo sindaco qui. Sindaco, però io mi sono l'acqua se fondo un capo. Ehi, bello grasso, bella la Madonna qua, eh? Già ci vado anche quando non è il mese mariano io mi alla chiesa San Pietro. Scende nei sogni, aiuto, mettimi in fila e abiti la baracqua. La Madonna sta forse l'impermeabile, la vera, mi porta un nylon, la mi porta un altro lato in eccia. Eh beh, se no si infondi tutta tanta e magari ti rovina il tessuto del coso che c'ha, tutte quelle cose che c'ha appese. Già avevo la golazza, avevo un nylon, ma è arrivato, dunque non si bagna. Si bagna che la porta, il vigile del fuoco. Avrebbero dovuto fare come tipo quel signore in macassaia a fare. con quei vetri, quelli in plastica, all'interno rimane l'acido dentro, applicata a quei bastoni dove adesso. Se potevano fare una specie di cupo ai plexiglass, riparato da cosa, dalle intemperie, invece vedi, oggi c'è più freddo e si bagna. Invece a casa fisico va la carrozza, è stato più cupo degli altri. E di nuovo, se mi vedi la carrozza io non mi vengo. Fino a pochi anni fa, dice, un telaietto fine anche lì, in tavoletta, con una porticina dentro, ma non mi pensano i librati a far via. I librati pensano a mangiare, mica, con qualche apparato, come va a mettere l'apparato a precisa? Eia! È uguale se non prendo una baracqua, non quel po' di gente che accetta. Ma vado sì, da così poco di cosa la baracqua, e dopo lo farà la baracqua, però porterà un serviente o un vigile del fuoco di mantenere la baracqua. E adesso è proprio di camera, vuol dire che è camera da lì. Oh, signor Bacchisio. Questo, buonasera. Sì, buonasera anche a lì. Allora, stiamo guardando la TV con cosa, con Graziano. La processione. Sì, lì la vede nel buro. Il nylon gli hanno messo per non infondirsi. Se non c'è da travagliare in falegname lì, l'abbiamo fatto una cupoletta con il vetro in cui deve l'abbia fatta. E per queste occasioni così, là. Una cupola grande ci vuole, fatta su misura, ci vuole una bella cupola. Una cupola oppure un coso quadrato tipo quello di Sant'Efisio, lui è dentro, se piove non si bagna. Ma la Bonifaci sempre così, la Bonifaci. La Briani va, ma hanno detto di lasciarla così. Invece no, ma chi su nylon, ma con la cupoletta la vedi più, con la cabinetta, là. Bella, bella fatta, leggera, per non appesantire. Mi fa la telaia in alluminio. Il più sottile va benissimo, noi deve fare forza, no? Deve riparare solo l'acqua. E allora, oppure invece d'alluminio anche in PVC bellissime che ci hanno rincrassi e tutto per il vetro e per la città vetta, una cosa bella sopra, tutta bella disegnata. Hanno speso per comprarsi l'ombrello, dunque non vanno sede nato. Lasciano domande e rubare la base. Io se sarei stato lavorando l'avrei fatto gratis. A piacere mio, fa 4 mesi di legna, 2 mesi di plastica. Questa è poca. Un po' di buona volontà per costruirla. E tu, buona volontà ti vuole. Avanti, ti auto. Sì, ti aspetta ahí. Ah, gliela volevano fare, non hanno voluto farla. Ben imbranati, anch'io da segreti, che magari chi tu vuoi dire, magari chi tu non vuoi nulla. Tu penso che verrà una voce, ha detto no, deve uscire così, la copriamo con del nylon. Bravo. Io l'ho innanto, un po' che in cosa è finito. Il teso ha il dolore. Mi ha giocato bene i denti io. E purtroppo San Nicola va a cosa dice. Il corso mi ha brigato a Sassari. E io l'ho vista al rientro l'altra volta dall'ospedale, ero all'ospedale, a Viale Italia, ero salito lì all'incrocio vicino al policlinico, là. Era a scuola. E poi è uscita ed è andata verso San Pietro. È bella la Madonna. Sì, io pure la giubilcia. Purtroppo. Vedi, ma ma non sta neanche piovendo, mi ha chiesto che non ne fendeva. Allora ha iniziato, dorrava, ha iniziato. Da chi sa di fondo di qui fare così? Vabbè, dai, già è tappata, non si infonde. Ehi, già è coperta, meno male non sta piovendo un bel. Ehi, già, bella, bella. Ma prendeva un bel però che la sia, allora, un poco più grossa, Oh, e allora ho aumentato la... Ma chi vai tu pure, vura? Poi la giuvita è la prima con le mogliere, perché se no sta piovendo molto. E che si fa tremare che se i pompieri se niente in forza la cosa, vedo lo santo, qualche la santa, poi si chiama. Che fondo! Hanno la divisa pesante, cioè, non ti preoccupare, già vanno la divisa pesante. E non si fonde che c'è la divisa. Sì, a si fonde, aveva andato via a Santo Preto e quindi aveva. Ma quelle sono impermeabilizzate, mi devi dire, non è bassa Eva? No, non è bassa. Allora, quelle cose ci hanno messo. Ehi, quel tessuto lì è impermeabilizzato, capito? E dunque l'acqua non te ne passa con quella divisa che c'hanno. E dentro rimane bel fatta. E ci sta bene dentro, va. Sto bene. Oh, yeah, yeah. Cosa volevo dirti? Stasera sono sceso a campagna. Ce l'ho avuto di fronte alle fornitore. Una macchina ha saltato la strada, è andata a capottarsi sopra il coso, per terrapieno. Devo dire che raggamenti, voi che raggamenti. Non so, dei mancanti da domenica. Mi ha saltato lo gradino che è 50 centimetri più e se è capotato sulla dritta attende. Certo, pensa un po' che giro ha fatto. Bubu. Ehi, mancante viene già un bel bacchì. Vuol dire che su aveva vinto ed è a correre i voci. Non lo so, non mi sono confermato che era un casotto di macchine, era la cosa, l'ambulanza con i vigili del fuoco. Pensa un poco. Autista, se sei vado, sta tranquillo, che lo controlla, va, aveva sabito. Hai ritirato la patente. Beh, adesso gli fanno la cortesia, si ha visto che era embriaco, so cavoli su. Infatti, oh Giulia, che andiamo dove andiamo, bobo. Ci bisogna andare alla Bieva. Aspetta un minuto. Siamo casata, che si è casata le fase male. Bruciare il sogamo. No, non attendi, non vieni più grosso, me. Attendi, è in presa buro. E cammina ne va, hai già in via d'Italia. Hai già in via privata la stessa parata. Rotturendo si fa a me. No. Dai, andare in piano. Andendi, andendi. Quasi allo grattacielo, non so. E venivo ancora andare al grattacielo, non so, arrivi di manco a Piazza Zuni. No, è il grattacielo che vedi via. Sì, ma è ancora lontano a Gandazza. Poi il grattacielo le prendeva, poi non ci vede più. A che non va da un bell'aria. Metteva a prendere i sassari. A me la Madonna va a pulire la mano davanti, non posso più fare. Un altro anno c'è stato così, mi. Come stava uscendo, la Madonna aveva finito di piovere. Quest'anno invece non ne vuole sapere. E a caso non va male, non c'ha potere da caso. Dire che Gesù Cristo ha detto adesso ti prendi un po' d'acqua. E beh, grazie. Grazie, è andata a Sara Raianna. Graziano! Graziano è andato a fare la televisione. Lascia la televisione, perché non la ci vedi più bene, uno dovrebbe un male. Ma poi dopo gli hai cantato niente bene, che se ti mangia la crocco, quindi. Ah, che la so. Cosa vuoi va? Ah, che andare via, vabbè, lo sindaco fa una baracqua manna. Sì, chi sa un baracqua mente di abbigliarsi, chi si da pastore. Oh! Che popolini in carrozzella, a cipatura elettrica. Sì, però pure un coso, però. Arcivescovo pure fa la baracqua. Tutti per baracqua, è tutto uguale insomma, invece è passato con un marocchino. E no, è andato in baracca, se vuole, vabbè. Vabbè da ogni baracca che va. Sì, lo sa lì, è stato un momento in negozi, in garage. La lì la prendeva, come faceva un problema, come fai a girare un montone? Lui ad esempio a baracca. Adesso poi ha fatto un cipagnetto, vai a viaggio. Però poi mi è andato lui e fa sempre tanto. Sei fondendi, arcivescovo. Già tanto si rivolge la baracca, non va a retto e si è furato. Vabbè, lo sentino a 15 giri. Un cappellino li si è furato, dove? Ce l'ha in mano, ve l'ha nell'altro, ce l'ha pure in mano. Però è lo sentino a da pigliarsi. Chi sa parte lo sentino, no? E piove, l'altro me lo dici, beh adesso chiudo, ciao Bacchisio, ciao Tore, saluta chi è in ascolto, alla prossima, ciao, vai Bacchisio. Yeah, ciao Graziella, buona serata, buona visione con le TV, buona insulina, buona cena, saluta la signora, a risentirci domani se coincide, ciao ancora Graziano, buona serata. Ciao Grazia. Stammi bene. Calmo, ok, riprendi il signor Bacchi. Ciao, ciao. Ciao, grazie, lo ciao. Anche a cielo siamo, Siamo a Piazza Castello. Sì, in Piazza Castello siamo, hai visto. Cosa vuoi fare? Sì, questo mi sto al riparo. Fanno i commenti da dare su casa. Sì, vabbè. Tanto stanno chiudendo, stanno. Quando bene me, da qua mi stanno mettendo qualcosa davanti, devo pigliare i bacchini. Ok, Tore, ci sentiamo, ce la vediamo al più presto. È tutto, saluto la signora, buona cena, buon tutto ancora. Ciao Tore, buona serata da Bacchisio. Ok, ciao Bacchi, ci sentiamo alle prossime. Andate.